corretto dei vecchi che calano a tarocchi come quelli di Vanna. Qua come Saviano scappiamo, ci alziamo i tacchi, ci accusano di spaccio se ci fumiamo una canna. Tu apri gli occhi, guadagni 100 sacchi, aumentano i poveri alle spalle dei ricchi. Qui ci danno spazzatura distruggendo la natura. Vorrei solo più cultura come un libro di Argan. È un'avventura dura, mista di rabbia e paura. Gli occhi chiusi per la crisi ma ancora guardi gli slogan. Apri gli occhi perché il tuo futuro è cupo. Se ti licenzieranno tu se puoi essere il tuo capo. Pensa sempre con la testa messa sopra le tue spalle. Governerai i tuoi sogni come Dio fa con le stelle. Scalo le pupille, voglio fuoco e non scintille. Chiamami ribelle, sono il complice dei serdi. Ne ho piene le palle del potere di ogni folle. Il mondo è sullo sfondo di una crisi di nervi. Apri bene gli occhi e guarda la tua città. Apriamo bene gli occhi e guardiamo la verità. Apriamo bene gli occhi per guardare nella luce. Apro bene gli occhi perché il nemico è veloce. Apri bene gli occhi e guarda la tua città. Apriamo bene gli occhi e guardiamo la verità. Apri bene gli occhi dell'individuo di guasto. Apri bene gli occhi perché il nemico è nascosto. Fanno credere a tua figlia che diventerà velina. L'ignoranza non la curi con nessuna medicina. Non è come credi, ci bombardo nel cervello con un manganello, con il grande fratello. Non è immune, senso comune che è retto dal deal. Quando la bile sale esplode come Chernobyl. Lavoriamo per soggetti e fomentiamo i loro posti. Produciamo dei prodotti fatti da noi ma non nostri. Retti da mostri che vogliono e non danno, che rubano dei pasti e fanno fastidi guadagni. E paura che la rabbia abbia consumato tutto, ma è la conseguenza di una gabbia con l'uncetto. Apri gli occhi bene perché il male sta nel gene. Al Quirinale oppure in tela, all'ospedale senza igiene. Al tribunale che dà pene dentro un locale di iene. Che cospirano e tirano colpi per rubarci il pane. E chi protesta non lo fa per la vendetta. Apri bene gli occhi e indaga pure su ogni setta. Ma intanto questi capi c'hanno più di una villetta. E solo fannullone che conosco è brunetta. Apri bene gli occhi, guarda la tua città. Apriamo bene gli occhi e guardiamo la verità. Apriamo bene gli occhi per guardare nella luce. Apro bene gli occhi perché il nemico è veloce. Apri bene gli occhi, guarda la tua città. Apriamo bene gli occhi e guardiamo la verità. Apri bene gli occhi dell'individuo in guasto. Apri bene gli occhi perché il nemico è nascosto. Apri bene gli occhi, guarda la tua città. Apriamo bene gli occhi e guardiamo la verità. Apriamo bene gli occhi per guardare nella luce. Apro bene gli occhi perché il nemico è veloce. Apri bene gli occhi, guarda la tua città.